Ravenna città meravigliosa, Ravenna capitale, Ravenna città bizantina, Ravenna dai colori splendidi, dai monumenti che portano stupore e meraviglia. Burri, Ravenna oro, biennale di mosaico contemporaneo. Nota personale, mosaico, dopo aver visitato sin in tenera età la città di Ravenna, decisi di acquistare una piccola confezione per bambini per iniziare a lavorare con i rudimenti del mosaico. Allora, portare opere, disegni, immagini, rappresentazioni con queste tesserine per avere così anche un'idea elementare sul mosaico, almeno per quanto mi riguarda, secondo me è difficilissimo. È apparentemente qualcosa che sì, si può realizzare, anzi molto curiosa, simpatica, perché no? Certo, non potremo mai arrivare a Galla Placidia, alla San Vitale, questi capolavori assoluti, però dai, così il passatempo, il mosaico, no, allora il mosaico è difficilissimo. Almeno io ho avuto questa esperienza e mi limito a studiarlo, ad approfondirlo, a seguire appunto questi incontri, ad ammirare queste opere stupende, beh, Ravenna Galla Placidia, San Vitale, il Battistero degli Ariani, potrei andare avanti ad oltranza perché è veramente un contenitore meraviglioso. Ricordo che dopo Roma è il comune più esteso in Italia, quindi le sedi saranno diverse per la Biennale di Mosaico, c'è l'esposizione fino al 14 gennaio. Allora, parere personale, poi vengo criticato, ma tu hai sempre quell'entusiasmo, hai sempre quell'uso di superlativi. Allora, tra le esposizioni ne ho viste diverse nel 2023. Ok, il premio per me, esposizione dell'anno, questa che ho potuto ammirare a Ravenna. Questa, secondo me, è l'esposizione che nel 2023 ha colpito di più, ecco, ha dato non solo per l'estetica, che certamente è importante, ma per l'idea di conoscenza, per le microsensazioni, per lo studio, per il progetto scientifico, per l'estensione, per tutto. La mostra Burri Ravenna Oro veramente è un'esposizione da non perdere. Iniziamo i nostri segmenti di conversazione, iniziamo con Roberto Cantagalli, che è il direttore della sede espositiva, poi avremo Bruno Corà, che è il curatore dell'esposizione dedicata al mar ad Alberto Burri, quindi per avere prima una visione più estesa anche di quella che è la Biennale di Mosaico, con i luoghi, con le sedi espositive, anche con le relazioni di Burri a proposito di questo protagonista che è l'espressione artistica del mosaico. Dopodiché entreremo direttamente nel mar per conoscere questa figura che ha cambiato l'idea di materia, che ha portato dei concetti assolutamente importanti per la crescita artistica. La musica nella prima parte sarà il disco che ho ascoltato dal vivo al Torrione nell'ultimo concerto, poi vi spiego perché. Invece dedicato a Burri, vi ho parlato di un grande trombettista e di materia, sarà il trombettista Freddy Hubbard. Sentiamo intanto la voce di Roberto Cantagalli per quanto riguarda la Biennale di Mosaico. Vorrei precisare che la mostra è parte della Biennale, quindi anzi è l'evento di punta della Biennale di Mosaico Contemporaneo e nel caso specifico la mostra illustra il rapporto tra Burri e Ravenna. Un rapporto che è stato estremamente importante perché ha condizionato tutta l'ultima produzione artistica del grande maestro a partire dagli anni 90. E ci potremmo chiedere per quale motivo Burri, che non è certamente noto per essere un mosaicista, non ha mai utilizzato la tecnica del mosaico, si ha esposto a Ravenna proprio in questa occasione. Il motivo è semplice, perché Burri trascorse un periodo piuttosto prolungato a Ravenna all'inizio degli anni 90, partecipando ad un progetto di mecenatismo contemporaneo che andò sotto il nome di Ferruzzi per l'arte. Gli venne commissionato un ciclo di opere che in qualche modo tracciassero il rapporto tra la città e l'arte. e gli ideò un ciclo appunto che chiamò Bisanzio, che poi purtroppo non venne mai realizzato a Ravenna per le note vicende insomma del gruppo Ferruzzi, ma che lui poi portò a termine. In questo le opere adesso sono esposte a Città di Castello presso la Fondazione Burri, e queste opere risentono fortemente delle suggestioni musive, insomma delle basiliche ravennati. I colori che sono presenti in queste opere sono il nero e l'oro, l'oro che viene applicato con una tecnica che evoca il mosaico, quindi si tratta di foglie d'oro applicate l'una accanto alle altre e che in qualche modo danno evidenza alle trame che caratterizzavano, che caratterizzano il mosaico. Da qui appunto la nostra idea di presentare Burri all'interno della Biennale di Mosaico Contemporaneo. Il titolo del disco, il lavoro qui eseguito da Jerome Selbag al sax tenore che stiamo ascoltando, capacità musiva di dare un interplay, sentite con l'incastro armonico perfetto, con Kenny Barron al pianoforte, al torione c'era altrettanto musicista di pregevole talento Danny Grissett. Nel disco troviamo Kenny Barron. Ogni nota è una tessera di questo mosaico. Il disco Vintage è stato presentato al Torrione nell'ultimo main concert sabato scorso, concerto veramente di modern mainstream jazz che appunto una tessera dopo l'altra, è stato un viaggio quanto mai interessante. Il nostro viaggio dall'Estense Ferrara arriva alla Bizantina Ravenna, dove con la Biennale del Mosaico, grazie anche alla disponibilità del direttore del MAR Roberto Cantagalli, dopo questa intersezione che ha dato tra il protagonista Alberto Burri e la Biennale stessa, appunto vista l'estensione della città, parleremo anche di sedi espositive. Torniamo alla Biennale un attimo, in senso esteso città grandissima Ravenna, altre sedi espositive coinvolta in maniera diciamo più estesa la rassegna? La rassegna coinvolge tutta la città, quindi sia i luoghi istituzionali, tra virgolette, della cultura, quindi altri sei dispositivi museali come ad esempio il Museo Archeologico Nazionale di Ravenna, come la Domus dei Tappeti di Pietra, quindi luoghi storici in cui è presente il mosaico contemporaneo. Questo ad evidenziare anche la vita, la vitalità del mosaico oggi, e anche ad evidenziare un altro aspetto: a Ravenna è possibile veramente ripercorrere la storia del mosaico attraverso 2000 anni di storia, quindi dal mosaico romano fino ad arrivare al Mar, dove oltre alla mostra di Buri sarà possibile anche ammirare la nuova sezione dedicata proprio al mosaico contemporaneo. Il Mar è una delle più importanti raccolte di mosaico contemporaneo al mondo, e qui ovviamente da qualche mese è stato riallestito una sezione con chiave ovviamente molto innovativa che completa in qualche modo l'offerta della Biennale, che però tocca anche luoghi che non sono deputati normalmente ad attività culturali, come ad esempio il Mulino Lovatelli, una struttura che è stata aperta per l'occasione, che non è normalmente fruibile. Quindi in questo spazio verrà allestita una mostra dedicata ad un collettivo ucraino che opera a Parigi, ma sarà anche l'occasione questa non soltanto di entrare in contatto con l'arte di questo collettivo, ma anche di ammirare delle architetture industriali che gli stessi ravennati non conoscono. Durata? La Biennale, e così come la mostra dedicata a Buri, terminerà il 14 gennaio. Grazie direttore, è stato un piacere. Grazie a voi. Grazie. Questa ballad, A Flower is a Lonesome Thing, beh, la dedichiamo alla sede, la casa dei tappeti di mosaico di Ravenna. Invito, anzi caldamente, a visitare per questa meravigliosa passeggiata. Intanto ringrazio Cristina, do il buongiorno, benvenuta a colazione, ben ritrovata Cristina, che incoraggia insomma queste mie parole. Thank you. Danny Baron on piano e noi torniamo in diretta, entriamo in mostra. Lo facciamo con una conversazione atipica, in quanto sono riuscito a intercettare in presentazione, è stata una conferenza che nel molto, molto partecipata e anche molto interessante, il dottor Bruno Corà, già curatore di altri lavori per seguire Alberto Burri, che nasce a Città di Castello, dove appunto vi ha sede per quanto riguarda Burri di opere e nella città in cui Burri ha trovato i natali, insomma. Ed è stata la realtà di conversazione che, ancor più che un'intervista diretta in questo caso, mi ha portato a conoscere, a dare un'interpretazione, oltre che aver modo di approfondire a livello di sensazione quello che è un intervento sulla materia, le modalità, la casualità. Parleremo in che modo verrà intesa la casualità, e vedremo anche il rapporto dell'artista con la materia e la natura, e troveremo anche quello che è l'aspetto comunicativo, e sono veramente concetti nell'arte di Burri che sono stati, oltre che rivoluzionari, qualcosa che hanno portato una chiave di sensazione, non dico di comprensione, ma una libertà visiva. Ecco, questo probabilmente è stato l'aspetto che più mi ha colpito, dare una libertà visiva alle opere che vengono proposte. La sua carriera è stata lunghissima, tra l'altro ha avuto modo di iniziare con diversi materiali, ricordiamo i sacchi, no, di Burri, o il lavoro con materiali bituminosi, i lavori con la plastica e anche su questi aspetti, i lavori con il fuoco, il lavoro alla fine della sua carriera avvicinandosi alla stessa città con il binomio, no, Ravenna mosaico, Burri Ravenna oro, il nero e l'oro, queste lame come verranno proposte e soprattutto come daranno una libertà visiva. Intanto cominciamo con questa frazione di intervento da parte di Bruno Corà a proposito di interpretazione. Sono tutti lavori, vedete, del 92-93, sono gli anni in cui Burri opera pensando sempre a Ravenna, stesse tecniche, stesse modalità. Naturalmente la morfologia cambia di ogni quadro, ogni opera. Le tecniche ve le ho suggerite prima, ve le ho evocate prima, sono coeve col ciclo che c'è, che è quello di Bisanzio, che è stato sviluppato alla fine non in 6 quadri solamente, ma in 10. Sono 10 le opere che sono intitolate Nero e Oro, sono a Città di Castello, ma queste appartengono di diritto a quell'epoca lì, a quel momento lì Burri sta esercitando come modalità, e quindi vedere una di queste e anche vedere le altre, diciamo così, l'esperienza è analoga. Ovviamente le cose, ognuno, ogni quadro è un'esperienza, ma non siamo in un altro tipo di linguaggio, ecco, lo stesso linguaggio. Quello che bisogna dire è che quando avete visto un sacco di giù, no? Avete visto come la materia è molto, diciamo, fisicamente presente in modo rilevante, anche con un aggetto nello spazio, cioè proprio si rivela fisicamente la materia. Piano piano negli anni Burri decanta questa materia fino ad arrivare poco prima della morte a questa pulizia, a questo rigore, questa forma, diciamo, tagliente, estrema, e anche con un uso esiguo, radicale, elementare dei materiali, no? Qui sono due materiali solo, il nero, acrilico, e l'oro, finito. Poi naturalmente tutti gli altri interventi sono magari col taglierino, la smucciatura, altre cose, cioè sono sulla superficie, elaborazione della superficie, però ormai lui è arrivato ad una pulizia, ad una idealità, diciamo, non di rappresentazione, mai, Burri non ha mai più rappresentato da quando ha cominciato a fare, diciamo, il lavoro con la materia, non ha mai più rappresentato, ha sempre presentato. ci vuole una rameno, ha sempre presentato la materia, è una presentazione fisica, reale, ecco, è molto importante, non è una metafora. La pittura di Buri lascia proprio da parte la metà, dimentica la metà, non è più rappresentazione, evocazione, fine, non c'è più quello nella sua testa, c'è la presentazione fisica della realtà, dei materiali, quello che si vede è quello che è, e poi dice, ma che cos'è, che vuol dire questo? È quello che vedi, che cos'è quello che vedi? Oro, poi nero, poi due neri, sì, e poi forma, cioè è quello, non è altro. È quello di cui lui vuole parlare, di quell'equilibrio, di quella qualità di cose che sono quelle che vediamo. Perciò bisogna fidarsi molto dell'occhio, perché lui dice guarda quel che vedi, non è che se tu sei preparato vedi di più, sempre di più, perché capisci che io ho fatto questa curva magari pensando all'archivolto. Quale archivolto? Ma guarda di Signorelli, vedi che la palla è fatta così. Cioè lui sempre, la storia, il richiamo è sempre sulla storia. Non dimentica mai la storia. Attenzione, avete ascoltato, guardate che è importantissimo quello che ha detto come chiave di emozione per l'opera di Burri. Non rappresentare, sparisce ogni metafora, ma è presentare. Chiedete a voi stessi quello che vedete, per quello che dico do libertà all'occhio per quanto riguarda l'aspetto, senza dimenticare poi un'affascinante estetica, questa, le opere nero e oro, le sale delle opere di nero e oro sono di una bellezza sconvolgente, è incantevole. Non rappresenta, ma presenta. E poi a voi. Negli ultimi anni di carriera il trombettista che state ascoltando, che è Freddie Hubbard, ha presentato percorsi nel jazz che dalla sua formazione legata all'hard bop, poi al free jazz e poi percorsi come sideman vicino ai più grandi musicisti, una tecnica eccezionale. E poi presenta in termine di carriera con la CTI Record, ed è questo segmento di carriera che ho voluto dedicare alle opere di Alberto Burri. Sentite anche come passa al funky, in questo caso dopo un brano di mainstream jazz, e come dialoga in maniera musiva insieme ad altri musicisti. Lo stacco, ci stavo parlando sopra purtroppo, ma nella scrittura di questo disco è veramente, nonostante un'età avanzata di Freddie Hubbard, quanto mai qualcosa che presenta, non rappresenta. Di musica, secondo me tutti i tempi è lui per me è tutti i tempi. George Benson on the guitar, la chitarra George Benson. Le lame d'oro in questo caso sulla presentazione che in questo brano dal disco Red Clay da Freddie Hubbard, l'artista che abbiamo, il musicista che abbiamo abbinato all'artista Alberto Burri. Finisce l'assolo, poi andiamo in pubblicità. Torniamo per le modalità, perché sono altrettanto affascinanti, oltre che i concetti. Alcune relazioni sono veramente interessanti. Grazie a Bruno Corà, curatore dell'esposizione Burri Ravenna Oro all'interno della Biennale di Mosaico Contemporaneo. A tra poco, non cambiate frequenza, Radio Città Fujiko, i vostri 103.1, ogni giovedì vi portano in mostra. Dejonette è il fuoco e Freddie Hubbard in questo caso la tromba lo guida, lo non dico domina, ma cerca quella casualità, quella sua casualità, e finché non riesce a trovare il motivo di interplay parte da Il via all'opera, e in questa parte di format in mostra i protagonisti saranno proprio questi. Sarà per sensazione personale come il gesto diventi facente parte dell'opera d'arte stessa, di come certo il caso non lo puoi dominare, ma puoi ottenere la tua casualità. Per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, Biennale di Mosaico Contemporaneo, Burri Ravenna Oro, è fino al 14 gennaio, una mostra da non perdere. E per quanto riguarda il contributo del dottor Bruno Corà per la curatela dell'esposizione dedicata ad Alberto Burri, noi procediamo in questa presentazione, non rappresentazione, dico questo in omaggio a un grande artista che veramente è illuminato. E sentiamo come questi concetti vengono appunto declinati e come naturalmente, perché anche la natura ha un'importanza ovviamente fondamentale, sentiamo questi concetti. Ma quando io devo ottenere una gradualità di frattura, vuol dire che io voglio dirigere la casualità, che è una regola, diciamo il caso, è una regola della natura, la casualità. invece l'artista dice no, io la natura in questo caso la devo tenere da parte, sono io che do la forma, sono io l'artista. Quindi la cosa importante di questo tipo di opere, ve lo sottolineo, è il controllo della casualità, che è una scommessa lunga, perché ottenere quello che si vuole mentre le forze, diciamo, e le sollecitazioni della materia si esprimono, non è un giochetto. E pure faceva e poi buttava anche, faceva e buttava, faceva, non gli piaceva, buttava, cioè conservava solo quello che secondo lui era riuscito a regola d'arte come voleva lui, insomma. Quello del controllo della casualità è uno dei punti importantissimi che si ripete in un'altra modalità di Burri, che qui non è presente perché si parla delle combustioni della plastica. Quando Burri usa la fiamma per bruciare le plastiche, per ottenere anche lì delle forme all'interno della plastica, sia plastica trasparente, plastica opaca, dunque coprente, in tutti e due i casi lui deve essere molto rapido nell'intervento della fiamma e spesso ci mette le mani dentro, mentre con una mano regge l'erogatore della fiamma, una fiamma al gas propano, come una specie di, diciamo, di fiamma ossidrica, chiamiamola così, una specie di pistola, no? Con un piccolo serbatoio di gas propano, l'avete visto qualche volta, serve per lavorare, insomma, per fare anche, diciamo, le saldature. Ecco, mentre lui con una mano opera sulla plastica preparata da lui, sul telaio, con la mano destra opera, con la sinistra e con il soffio spegne, interrompe, perché lui decide lui quando questa plastica deve smettere di bruciare, perché se noi brucia la plastica va tutto a fuoco, cioè per conto suo, cioè segue una casualità anche lì, come qui. Invece no, l'artista è lui che controlla la forma, ricordatelo, quindi è molto importante. Nel caso della plastica, nel caso del fuoco, la fiamma divampa, non lo puoi, cioè non puoi controllare se non con un intervento o manuale o col soffio. E lì è molto interessante perché probabilmente i progenitori nelle caverne, quando lavoravano con gli ossidi, soffiavano in delle canne e poi mettevano una mano lì per far vedere che loro erano stati lì, poi disegnavano con... Il soffio è molto antico nell'arte, bisogna non dimenticare, è un mezzo. Questa casualità non mi piace, ne provo un'altra. Questa casualità ancora non mi piace, ne provo un'altra. Su sfondi con delle colle che ovviamente in breve tempo andavano a seccarsi, portando a rottura il materiale che veniva posato sopra. Se questa rottura, se i percorsi naturali che avvenivano per queste frazioni non erano quello che voleva rappresentare, si rifaceva. L'idea dell'assolo nel jazz, no? Che è come una narrazione in cui vi sono parti che possono risultare più, non dico ostiche, meno leggibili, ecco, per poi riprendere un tema in maniera sempre diversa, fino a perfezionare, fino a trovare, fino ad aggiungere, in questo caso l'aspetto di composizione con altri musicisti, l'interplay, no? Vi parlo di percorsi, vi parlo di materiali, perché veramente queste oltre 100 opere sono da ammirare, con questo trasporto, con un'interpretazione che dà una libertà visiva, con un lavoro che diventa opera d'arte all'interno della stessa opera, con un dialogo che va dalla casualità allo stesso tempo all'ordine, poi ricercato con queste applicazioni e questi concetti. Questo Alberto Burri in una lunga carriera ha portato come senso, che poi diventerà anche naturalmente artista ed estetico, e ognuno avrà l'occhio, come ha detto Bruno Cora, per vedere la presentazione del lavoro. Ultimi anni, piccola parte con la quale ci congediamo, ringraziando sia Roberto Cantagalli, direttore della sede espositiva del MAR, che Bruno Cora, curatore per quanto riguarda Burri Ravenna Oro. Ultimi anni. Ecco, qui siamo di fronte ancora all'evoluzione di questo rapporto. C'è l'interesse di Burri per la ceramica, e sapete che c'è un grande lavoro, no? A Faenza, che è all'ingresso del museo. E qui insomma siamo in quell'area lì, in quegli anni, siamo nel 94, Burri muore nel 95, quindi lavora quasi fino alla fine, c'ha desiderio di lavorare, poi invece la malattia lo neutralizza in qualche modo, e quindi entra, esce dall'ospedale, insomma non vi sto a raccontare, ma qui ci sono le estreme realtà, diciamo, della sua opera, e non rinuncia all'impeto, non rinuncia alla gestualità. Ancora prima abbiamo parlato di questo rigore, di questo litore, ma c'è sempre, come dire, in lui l'animo giovanile, voglio dire, quindi vuole sempre tornare ai momenti, come dire, iniziali della sua arte, ai catrami, a tutto questo. Ma Burri ha detto una cosa, e così chiudiamo il discorso almeno qua, ha detto: il mio primo quadro è uguale all'ultimo. È inutile pensare che c'è un'evoluzione. Il mio primo quadro è uguale all'ultimo. Per me sono tutti uguali. Non c'è evoluzione. Il mio primo quadro è uguale all'ultimo. Teniamone in conto. È una sua dichiarazione. Non ha detto molte cose. Questa è una delle poche cose che ha detto. E poi ha detto un'altra frase anche. Ha detto che le parole non gli sono d'aiuto nel poter, diciamo, esprimersi sulla sua pittura, perché essa è una irriducibile presenza. Irriducibile presenza vuol dire che non si può ridurre ad altro, né alle parole, né al suono, né alla musica, né a niente. L'occhio e l'opera, fine. Però ne ho voluto dare una presentazione, oltre che con le parole, anche con la musica. Abbiamo parlato dell'importanza del soffio nell'arte sin in epoca primordiale. Per quanto riguarda la musica, beh, i grandi trombettisti, tutto ciò, strumenti che andavano in questo modo, e questa è un'altra attinenza più generale, ecco, se vogliamo, ma perché no? Questa è una ceramica, questa è veramente è preziosa, per usare un eufemismo. È il brano più bello che ha composto Red Clay in tarda età. Questa è una versione live, ci sarà un assolo di Stanley Tarantino, anche quello di Freddie Hubbard stesso partito ora, è veramente straordinario, e porta a conclusione la puntata in mostra di oggi. Per quanto riguarda la durata della Biennale e della mostra Burri Ravenna Oro, al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, fino al 14 gennaio 2024. Mi è arrivato un messaggio: grazie a te, grazie a voi dell'attenzione, grazie a voi per aver fatto colazione con Radio Città Fujiko anche per questo giovedì 19 ottobre. Coba, ma la batteria qua fa un lavoro. Secondo me alla fine non ne può più. Applausi, eh? Già in tarda età qui Freddy Hubbard. Ready for Freddy? E questa nostra sigla di conclusione, presentazione per domani in scena, ricchissimo triplo appuntamento, il rotocalco calza al sipario sui 103.1, dopodiché dalle 11.30 alle 12.30 il Jazz Live Bologna Jazz Festival e il programma per il weekend del Torrione. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto, un buon giovedì sui 103.1 di Radio Città Fujiko. E dal vostro William Piana, servo vostro, l'appuntamento a colazione va domani. Ciao a tutte, ciao a tutti.